dovremmo essere tutti grati, ne converrete, ai compagni del manifesto, che mercoledì mattina, quando siamo usciti da casa un po' rintronati per aver atteso fino a tardi i risultati delle presidenziali americane e abbastanza incazzati per come era andata, ci hanno fatto trovare in edicola un giornale che annunciava a piena pagina la vittoria di Kerry. Non era vero, naturalmente, ma se non altro, all'alba di quello che occhio e croce s'annuncia come un quadriennio piuttosto difficilino, ci hanno strappato un sorriso. Sarà per questo probabilmente che nessuno ha infierito su questi avventati colleghi. Il loro giornale chiude presto ed infortuni del genere ne sono sempre capitati da quando nel 1948 non ricordo quale importante organo di stampa statunitense annunciò col dovuto rilievo la vittoria di Dewey su Truman. Ma allora non si subavano tante energie in exit poll e sondaggi, va detto. E poi nella notte di martedì, nelle prime ore dopo la chiusura dei seggi, l'univocità degli esiti parziali pro Kerry che venivano via via annunciati era tale da convincere persino i peggio disposti. Lo stesso Bruno Vespa, fino a una certa ora, aveva l'espressione un po' preoccupata, come se temesse che ci fosse qualcosa di vero nei vaneggiamenti dell'onorevole Rutelli, un altro che non solo aveva dato per vincente in diretta al candidato democratico, ma aveva anche spiegato che la sua vittoria era dovuta alla sagacia con cui egli aveva inseguito i voti di centro. E figurarsi noi. In realtà, nell'infortunio del manifesto siamo caduti tutti, dagli inviati e corrispondenti di Radio Popolare, giù fino a noi ascoltatori e telespettatori semplici, che nell'autorealizzazione di un wishful thinking tanto ovvio siamo stati da subito pronti a giurare. Insomma, è andata così. Ma adesso che l'orrido Bush ha incassato il più sostanzioso successo della storia elettorale americana e resta libero di fare la guerra preventiva a chi vuole, di tagliare le tasse ai ricchi e l'assistenza ai bisognosi, di negare i diritti delle minoranze, di spalleggiare gli Sharon del mondo, di imporre i precetti del puritanesimo fondamentalista, di fare insomma tutte le orribili cose che sicuramente farà, sarà forse il caso di mettersi a ragionare di cose serie. Di non perdere tempo, per esempio, a discettare sull'inadeguatezza dello strumento degli exit polls, che in fondo chi se ne frega, perché quello degli exit polls è un falso bisogno indotto dalle necessità interne del sistema dei media e se ne potrebbe fare a meno proprio senza nessun danno. Di non scoprire l'acqua calda, facendo notare, come fanno tutti, che gli elettori hanno votato sì contro i propri interessi, ma in nome dei valori, forti o caldi che siano, come se interessi e valori fossero qualcosa di diverso uno dall'altro. E soprattutto di smettere di ripetere a pappagallo che sì, l'esito non è forse quello che avremmo auspicato, ma una simile partecipazione di massa alla prova elettorale, un così straordinario incremento degli elettori in cifre assolute e punti percentuali e senza neanche troppi brogli, dimostra che gli Stati Uniti d'America, viva Dio, sono e restano una grande democrazia, però le cui decisioni bisogna avere tutta la deferenza e il rispetto del caso. Ecco, io con il vostro permesso per la decisione di rieleggere Bush non provo rispetto alcuno. Lo proverei, vi assicuro, nemmeno se l'avessero presa all'unanimità. La ritengo, più che una prova di democrazia, un bel esempio di crisi della democrazia. È una decisione sbagliata, nociva persino per la maggior parte di coloro che l'hanno presa, e anche se mi rendo conto che questo contrapporre un mio punto di vista a quello della maggioranza dei diretti interessati può suonare arrogante e antidemocratico, e chissà cosa ne direbbero Giuliano Ferrara ed Ernesto Galli della Loggia, non vedo cos'altro potrei dire io. Ma visto che nella contraddizione ci troviamo più o meno tutti noi di questa sponda, l'obbligo di dipanarla in qualche modo è uno di quelli da cui non si può prescindere. È un tema spinoso, Ma forse non è del tutto irreale l'ipotesi che oggi come oggi l'identificazione tra democrazia ed esercizio del voto non sia più univoca come era stata concepita dalla fine del Settecento in poi. Non nel senso che possa darsi una democrazia senza elezioni, magari, ma in quello che le elezioni, ahimè, forse non bastano più a garantire la democrazia. In fondo, lo dicevamo prima, è tutta una questione di valori ed interessi, che sono la stessa cosa, perché interessa di ognuno affermare i propri valori ed è un valore vedere i propri interessi realizzati. E in scambi di questo tipo, del resto, che si realizza il nostro insopportabile, insopprimibile bisogno di ideologia. E il momento del voto non è altro che uno dei rari momenti di scambio pubblico di valori, come a dire d'espressione ideologica, che ci vengono allo Stato concessi. Ma lo scambio dei valori, ahimè, non è mai alla pari. I valori non sono tutti uguali, ma la differenza di peso, la loro differenza di peso, diciamo così, dipende più dalla forza di chi li propone che dalla loro natura, che dalla loro natura intrinseca. Non è tanto per dire che patria, famiglia, sicurezza e niente matrimoni gay siano valori più forti di quanto non siano pace, assistenza sanitaria per tutti e risanamento del deficit commerciale. Il fatto è che sono più forti, concretamente, i gruppi che li propongono. Sono più forti perché hanno più soldi, più armi, più visibilità e più capacità di comunicazione. Il sistema elettorale classico, specialmente in quella sua variante tipica in uso negli Stati Uniti d'America, nasce nell'orizzonte ideologico di una società egualitaria, in cui uguali per tutti non deve essere solo il voto, ma anche la possibilità di proporlo e indirizzarlo. Nella prospettiva abbastanza utopistica di una comunità di liberi uguali in cui ciascuno deve essere in grado di sottoporre agli altri le sue proposte e i suoi obiettivi. La società di massa è andata in tutt'altra direzione. La possibilità di manipolazione mediatica delle coscienze sono cresciute a tal punto da togliere molta credibilità a questo ideale. Dal voto di una società sempre più lontana da qualsiasi ipotesi di libertà e di uguaglianza può nascere il frutto avvelenato della presidenza Bush. E l'esito legittimo, si intende, l'esito legittimissimo di un sistema che ha perso per strada i suoi stessi fondamenti. Ecco, come prova di democrazia, francamente, a me non sembra un granché. Ah sì, scusate, gran parte di quello che abbiamo detto varrebbe anche se il manifesto l'avessero azzeccato e avesse vinto Kerry, naturalmente. Ma questo è un altro discorso.